Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero e bianco ai puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. E con questa ode alla vita di Marta Medeiros, una scrittrice giornalista brasiliana, una poesia che è stata in passato anche erroneamente attribuita a Pablo Neruda, cominciamo la trasmissione di questa sera dei Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9, in compagnia con me, Rosanna, e in compagnia di. Benedetta, Allora, buonasera. Grazie buonasera a te, Benedetta, grazie di essere a te, venuta. Rosanna, per l'invito. Mi fa molto piacere avere la tua compagnia vocale, ma insomma anche e soprattutto la tua presenza qui a Radio Alma. E prima di, diciamo, di addentrarci nell'argomento di oggi, magari se ci puoi dire brevemente di cosa parleremo. Dunque, questa sera, visto che è il 14 febbraio, ed è San Valentino, quindi intanto facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Valentino o Valentina. E così volevamo parlare di questa festa dell'amore, ma non in maniera solita, consueta, consumistica, parlando di regali, di serate, di possibilità, di festeggiamenti, ma volevamo appunto proporvi un modo diverso di guardare a questa festa dell'amore, perché appunto l'amore in realtà poi è un concetto molto più ampio e infatti durante la serata vi mostreremo come si può parlare dell'amore in veramente in tantissimi modi. Allora, benissimo, quindi parleremo, diciamo, di amore, ma a modo nostro, in questa serata di San Valentino. Auguri a tutti i Valentini anche da parte mia. Auguri anche a Valentina che solitamente, come sapete, conduce la trasmissione prima, di noi, dalle 20, alle 21. E naturalmente, quindi, a tutti gli altri che sono qui a Bruxelles. Mandiamo brevemente la sigla e ci ritroviamo fra pochissimo. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9. E questa era la musichetta, la sigla che accompagna le nostre trasmissioni, un remake, diciamo, del Cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. E perché? Perché in effetti nella trasmissione I Colori dell'Anima, non solo ogni volta cerchiamo di parlare di un argomento che può interessare i radioascoltatori, ma ci proponiamo anche un colore. E quindi per San Valentino, quale colore? Meglio del. Ecco, Rosso. il rosso, quindi dedicato a tutti gli innamorati, naturalmente nel senso allargato del termine, vero Benedetta? Sì, il più ampio Il più ampio possibile. possibile. Allora, prima di darti la parola, volevo solo ricordare qualche dettaglio pratico, intanto che se volete chiamarci, il nostro numero 02 345 2656, mentre invece se ci volete visitare sul sito web radioalma.blogspot.com, radioalma.blogspot.com. www.lamoreinfinito.com. A te la parola. Bene, allora cominciamo questo nostro percorso su questa festa dell'amore. Come tutti sapete, insomma, anche nei giorni scorsi abbiamo avvertito in strada proprio la presenza di questa festa che incombeva un po' sulle nostre teste a causa di tutti i cuori rossi nelle vetrine, delle frasi d'amore scritte su t-shirt piuttosto che peluche di ogni genere, purtroppo frasi d'amore, aggiungo io, banalissime, e che però appunto ci hanno preannunciato questa tanto attesa festa degli innamorati. Forse però potremmo chiederci un po' di più se noi ci riteniamo innamorati e non semplicemente della nostra fidanzata o di nostra moglie, ma se questo concetto possiamo estenderlo un attimino in maniera più ampia nella nostra vita e se per questo noi stessi possiamo riconoscerci in qualche modo strumenti d'amore. In effetti la vita ci propone infinite possibilità di vivere l'amore, ma spesso non siamo in grado di riconoscerle nella nostra vita. Eppure mi accorgo spesso che basterebbe veramente un piccolo gesto, basterebbe pensare che chiunque ci passa accanto ha realmente bisogno del nostro amore, che non significa fare grandi gesti, ma anche semplicemente donare un po' di attenzione, ad esempio in famiglia quando i figli ci chiedono aiuto, oppure quando con gli amici attraversiamo le strade e incontriamo i clochard nella stazione, oppure quando veniamo a conoscenza di persone anziane abbandonate, o più semplicemente anche nei nostri luoghi di lavoro, di studio. Tantissime quindi possono essere in effetti le occasioni di donare e di donarsi, non solo materialmente, ma anche con un semplice sorriso, o un saluto, o un po' di ascolto. Certo, vedere tutte queste possibilità di amare chi ci sta intorno a volte è molto difficile, perché spesso siamo assorbiti da questo nostro mondo in cui in fondo conta solo l'individualismo, la corsa alla ricchezza, il forte che schiaccia il debole, il successo e la salute di chi si ritiene normale. Eppure, io penso che basterebbe veramente poco per potersi fermare e pensare e riflettere un attimo: cosa faccio io per essere amore? La nostra vita allora avrebbe davvero un altro senso, perché noi per primi saremmo innamorati di essa e di quella degli altri, e alla fine, insomma, San Valentino non sarebbe più solo il 15 febbraio, ma davvero tutti i giorni dell'anno. E allora, Benedetta, se mi permetti, dopo questa tua bella introduzione, diciamo carica di riflessioni, tornerei un attimino proprio sul leggero, perché appunto San Valentino è stato un vescovo e martire cristiano vissuto tra il 176 e il 273 d.C. e si è visto attribuire alcuni miracoli che gli hanno regalato la fama di santo dell'amore. Per esempio, sembrerebbe che una coppia di innamorati che si sono incontrati proprio grazie a questo vescovo. I due stavano litigando, lui li fece riconciliare facendo volare loro intorno decine di coppie di piccioni. E quindi da questo episodio deriverebbe anche l'espressione piccioncini riferita agli innamorati. Altri invece parlano di amanti salvati dalle persecuzioni o dai veti dei genitori. La festa degli innamorati è legata al culto di questo santo? Probabilmente no, avrebbe origini più antiche e precisamente nei Lupercalia romani che venivano celebrati il 15 di febbraio, erano riti dedicati alla fertilità e appunto c'era l'abitudine di spedire le valentine, cioè dei messaggi d'amore tipici di questa festa. La più antica risalirebbe al XV secolo, è attribuita addirittura a Carlo d'Orléans, che durante la prigionia nella Torre di Londra scrive alla moglie definendola «Ma très douce Valentine», «Mia dolcissima Valentina». Però sembra che già nell'Ottocento alcuni imprenditori statunitensi cominciarono a produrre biglietti su scala industriale e gli ottimi affari diedero un impulso decisivo allo sviluppo della festa. Quindi, insomma, questo aspetto consumistico, cara Benedetta, ormai probabilmente avrà quasi 200 anni e sarà difficile toglierlo. Troppi, troppi, troppi. Eliminiamoli. Allora, benissimo, è il momento di fare una piccola pausa musicale, un brano scelto da Benedetta di un gruppo che si chiama Scorza. Ci vuoi dire qualcosa di questo gruppo? È un gruppo dell'Interland milanese che fa musica, diciamo, un po' impegnata, e vi accorgerete, insomma, ascoltando attentamente questa canzone, quanto sia, insomma, in tema con la nostra serata. Erano gli Scorza, canzone scelta da Benedetta, che appunto la considera in linea con la tematica di oggi. Oggi San Valentino, quindi festa per tutti coloro che si chiamano Valentino, ma penso che ce ne siano soprattutto di Valentina, quindi auguri a tutti loro, e un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori dei colori dell'anima. Prego, Benedetta. Bene, continuiamo il nostro percorso sull'amore, diciamo occupandoci di un altro aspetto dell'amore, che è l'amore per il diverso. Infatti vorrei portare alla vostra attenzione ciò che è successo esattamente il 6 febbraio scorso a Roma. È stato un giorno, infatti, di lutto, di silenzio, ma soprattutto io aggiungerei di vergogna. E con questa città, quindi con Roma, forse è stato un giorno di vergogna per tutte le città italiane. Durante questa notte, infatti, in un piccolo insediamento abusivo di periferia, un incendio è divampato in una baracca. C'erano dentro 4 bambini di nazionalità rom. Non hanno avuto scampo, non sono riusciti a fuggire, a buttarsi fuori. Sono morti, e speriamo nel sonno. I loro nomi sono Sebastian, di 11 anni, Patrizia, di 8 anni, Fernando, di 5, e Raul, il più piccolo, di 4 anni. I loro nomi oggi si aggiungono purtroppo ad altri 50 bambini che negli ultimi 20 anni sono morti nella sola capitale. Questa è appunto una vera e propria strage degli innocenti. E insomma, ci sembrava giusto ricordare questo episodio, soprattutto perché in una puntata precedente abbiamo parlato di associazioni di volontariato, abbiamo parlato anche della comunità di Sant'Egidio, comunità che è molto che lavora fianco a fianco con queste popolazioni, soprattutto appunto con le popolazioni rom e sinti della città di Roma. La comunità si è fatta, diciamo, portavoce di queste popolazioni attraverso Paolo Ciani, che è appunto anche il responsabile del settore rom e sinti della comunità di Sant'Egidio, che in un'intervista risponde così alla domanda appunto su cosa fare per risolvere questo problema. Credo che ci dobbiamo tutti domandare che cosa in questi anni la nostra società e la nostra cultura hanno costruito e distrutto in umanità rispetto agli zingari, rispetto ai rom. Perché il problema è che se ancora si può vivere così è perché per troppi anni si è seminato antipatia, disprezzo, spesso odio rispetto a queste popolazioni. La famiglia che ha perso i 4 bambini sta in Italia da 10 anni ed è stata sgomberata 30 volte da diversi insediamenti. Si è trovata a vivere in un accampamento di poche baracchette nascoste tra la via Appia e Tor Fiscale. È normale allora che, vivendo in una situazione di miseria e precarietà, tragedie come queste possano accadere. Ora il problema non è trovare di chi sia la colpa. Ad una successiva domanda, appunto, perché muoiono sempre i bambini, Paolo Ciani risponde che muoiono i bambini perché sono i più indifesi, sono i più piccoli, sono quelli che meno sanno difendersi in situazioni di pericolo. Bisogna però dire anche che, se è vero che in situazioni tragiche muoiono sempre di più i bambini, purtroppo è altrettanto vero che muoiono anche gli altri. Sono situazioni talmente misere per cui anche la speranza di vita si abbassa tantissimo. Si muore giovani rispetto alla media perché si vive male e in condizioni di precarietà. Ma magari fa meno notizia questo appunto. Però purtroppo la realtà è questa. Eh sì, e anche l'amore per il diverso, che in questo caso appunto ha avuto veramente una tragica fine, anche perché insomma quattro bambini tutti in una volta fanno veramente riflettere e addolorare moltissimo. E su questo argomento quale brano vuoi farci ascoltare? Il senso della vita. Ah, Il senso della vita di Elsa Lila, che è una cantante tra l'altro albanese, quindi insomma mi rimaniamo sembrava, in tema. Sì, rimaniamo in di tema diversi. Di diverso, di straniero, e insomma buon ascolto. Benissimo, a fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9. Allora, siamo ritornati in studio dopo questa canzone Il senso della vita, scelta da Benedetta, e adesso parliamo di un altro amore su Radio Alma, I colori dell'anima. Di quale amore parliamo, Benedetta? Beh, di un amore a me molto molto caro, che è l'amore per la ricerca e per la salute, ecco, perché benissimo. Ovviamente sono due argomenti estremamente connessi tra di loro. Allora, e se siamo state brave, a questo punto dovremmo avere in linea il professor Giovanni De Gaetano. Professor Giovanni De Gaetano, ci sente? Oh. Ci siamo? Certo. Ecco, buonasera. Buonasera professore. Allora, buonasera, benissimo. Rosanna, buonasera Benedetta. Intanto grazie di aver raccolto questo nostro invito a fare questa intervista, perché come, vabbè, insomma, ci possiamo dare anche del tu, caro Giovanni, possiamo dire che stiamo parlando stasera una puntata molto speciale dei colori dell'anima, dedicata, l'abbiamo intitolata Amore per, e quindi amore sotto tanti punti di vista, e ci siamo ricordati del nostro professore di Campobasso, dell'Università Cattolica di Campobasso, che appunto è riuscito a coniugare nella sua esperienza di vita e professionale l'amore appunto per la ricerca e l'amore per la salute. Ci può spiegare che cosa fa? Io sono medico, ho fatto una specializzazione in Belgio all'Università di Lovanio, un PhD, come si dice. Pronto? Sì, sì, sentiamo. Pronto? Sentiamo, sentiamo. Sì, ecco. Benissimo. E, per oltre 40 anni ho fatto il medico facendo ricerca. Che cosa vuol dire? Che non ho avuto un contatto diretto con i pazienti, con gli ammalati, con le persone che hanno un problema, ma ho lavorato per cercare di risolvere alcuni problemi di salute, per migliorare la salute di tante persone, perché la ricerca non ha un valore soltanto per il laboratorio o il paese dove si svolge, ma ha delle ricadute che possono essere delle ricadute internazionali. Tra le cose che mi hanno dato maggiore soddisfazione è stata la ricerca sull'aspirina. Ho cominciato a Lovanio questo tipo di indagini e poi l'ho proseguita a Milano e poi in Abruzzo, e se oggi in tutto il mondo milioni di persone prendono 100 mg di aspirina o aspirinetta o cardioaspirina per prevenire una malattia del cuore molto grave che è l'infarto cardiaco, lo si deve anche un po' alle ricerche che con i miei collaboratori ho potuto compiere negli anni 60, negli anni 70, fino agli anni 80. Ma continuiamo ancora a lavorare sull'aspirina, perché adesso che questo farmaco è stato utilizzato da milioni di persone per prevenire appunto le malattie cardiovascolari, è emerso che ci sono diverse persone, forse una su quattro, che non risponde pienamente o come uno si aspetterebbe agli effetti farmacologici dell'aspirina. È nato questo concetto che non c'era fino a una decina di anni fa della resistenza all'aspirina. Allora stiamo cercando di capire se si può prevedere chi risponderà bene o chi risponderà meno bene a questo farmaco e quindi stiamo cercando di capire come evitare di trattare magari per tanti mesi di seguito delle persone che poi non avranno vantaggio da questo trattamento e quindi ci stiamo avvicinando ad una medicina che diciamo personalizzata, cioè è come se prima si vendevano i vestiti al supermercato o in un grande outlet e ognuno andava lì, trovava già i vestiti confezionati e sostanzialmente tutti vestivano nello stesso modo. Adesso stiamo cercando di ritornare alle antiche sartorie. Ognuno dovrebbe avere il vestito fatto su misura dal suo sarto e il sarto in questo caso è il medico di medicina generale o lo specialista in certe circostanze, in modo che ad ognuno si possa applicare il meglio e il massimo di quello che una certa terapia, io ho fatto l'esempio dell'aspirina, ma il concetto vale per gli interventi chirurgici, per il bypass ortocoronarico, per la radioterapia, per i farmaci antitumorali. Questo è lo sforzo che la ricerca sta facendo in questo periodo, quello di tradurre i risultati di laboratorio che possono essere validi per tutti al letto di ogni malato, in modo che ognuno possa ricevere il meglio della terapia. Allora, visto che abbiamo parlato di cuore, che effettivamente è molto in linea con questa giornata di San Valentino, ci puoi dire anche quanto è importante in generale la ricerca sul cuore, quindi sulle malattie cardiovascolari, nel senso qual è l'incidenza che queste malattie hanno oggi, diciamo anche con tutta la ricerca che è stata fatta in questi anni in questo campo? Sì, quando io mi sono laureato e poi pochi mesi dopo sono arrivato a Lovanio, a Leuven, su 100 persone che venivano ricoverate in ospedale per infarto del cuore, circa 60-65 tornavano a casa, 30-35% delle persone morivano in ospedale. Oggi, con la ricerca che si è sviluppata in questi anni e grazie anche all'aspirina di cui abbiamo parlato poco fa, soltanto 1-2 persone su 100 muoiono in ospedale dopo un infarto. Quindi in 40 anni c'è stato un progresso straordinario della medicina dovuto alla ricerca. Però c'è qualcosa che ancora non abbiamo risolto. Continuando a fare l'esempio, su 100 persone che sono a casa e che improvvisamente sentono un dolore al petto che si irradia al braccio sinistro, dietro la spalla sinistra e sono i primi sintomi di un infarto, 30 su ogni 100 persone, 30 non riescono ad arrivare in ospedale e quindi ad avere tutti i vantaggi che ho detto prima che si sono accumulati in questi anni, perché muoiono nei primi minuti dopo i sintomi oppure muoiono in ambulanza, muoiono mentre vengono trasportati in ospedale. Allora, se c'è stato un grande vantaggio della medicina, della farmacologia, della terapia, abbiamo ancora un buco enorme nella prevenzione. Se queste persone che muoiono improvvisamente, per queste persone non possiamo ancora fare molto o niente, bisogna evitare che queste persone si ammalino. Quindi non basta avere le migliori sale operatorie, avere i farmaci più potenti, bisogna lavorare per la prevenzione, cioè bisogna lavorare perché le malattie non avvengano. E come si fa? E questo è un altro, il tema di ricerca principale del nostro gruppo all'Università Cattolica di Campobasso in questi anni. Stiamo cercando di capire quali sono i fattori, per esempio l'alimentazione, l'attività fisica, il fumare o non fumare, il bere o non bere un bicchiere di vino, il mangiare, condire la verdura con olio d'oliva o con burro, e prendere l'ascensore o salire le scale a piedi, quanto una serie di questi comportamenti studiati, standardizzati, capiti anche nei meccanismi, possono aiutare a far sì che le persone non si ammalino di infarto o invece di ammalarsi a 50 anni si ammalino molti decenni dopo. Ormai la vita si sta allungando per tutti noi e quindi dobbiamo cercare di arrivare il più possibile ad un'età avanzata ma in buona salute. E questo è un tema affascinante, quello della prevenzione. Ecco, abbiamo parlato tantissimo di ricerca con lei. E io sono una ricercatrice, allora le faccio una domanda un po', diciamo, che mi riguarda personalmente. Cosa direbbe lei oggi ai giovani ricercatori italiani e soprattutto cosa direbbe a tutti quelli che sono andati via dall'Italia per fare ricerca? Cara Benedetta, tu sei tremenda, io ti conosco bene e hai fatto una domanda molto, molto difficile. Si parla molto di fuga dei cervelli. In realtà bisognerebbe favorire la fuga dei cervelli, nel senso che bisognerebbe favorire lo scambio con i laboratori di tutto il mondo e favorire che ogni giovane ricercatore italiano possa passare del tempo importante nei migliori laboratori all'estero, e come stai facendo tu, Benedetta, a Lovanio. Il problema qual è? Dove comincia il problema della fuga dei cervelli? Non nel fatto che i cervelli fuggono, ma che non possono tornare, perché non trovano in Italia, da noi, le condizioni che hanno sperimentato all'estero. Non trovano una mentalità adatta, non trovano i finanziamenti adeguati, trovano un sistema accademico che è ancora molto lento, burocratico, dove si dà poco spazio ai giovani. Negli Stati Uniti un chirurgo a 30 anni fa i trapianti di qualunque organo, può fare delle cose straordinarie. Da noi a 30 anni sì e no, lo fanno entrare in sala operatoria. Ecco. Allora bisogna cambiare molto la mentalità, bisogna che l'università italiana si trasformi profondamente, che il governo, e qui devo dire governi di destra o di sinistra purtroppo non hanno mai fatto differenza, il governo consideri la ricerca non il pasticcino che si può mangiare a fine pasto, che se c'è va bene ma se non c'è non cambia niente, come invece purtroppo succede, ma come invece l'investimento principale per la nostra salute, e non solo, ma per tutto quello che un paese in maggiore salute comporta. Voi immaginate una persona che è un imprenditore che ha 200 operai e che a 50 anni viene colpito da infarto. Noi dobbiamo prevenire questo, perché non soltanto facciamo un bene all'imprenditore che non viene colpito da infarto, ma facciamo un bene ai 200 operai e alle 4 persone in media per famiglia, quindi sono circa 1000 persone che si avvantaggiano se una persona importante, un imprenditore nel pieno della sua attività, non viene colpito da una malattia che si può prevenire oggi con adeguati investimenti. È per questo che la ricerca dovrebbe essere più un problema del Ministero dell'Economia, del Ministero del Lavoro e non tanto del Ministero della Sanità, perché è un problema che riguarda tutta la società. Certo. Invece purtroppo dobbiamo ancora fare molto cammino. Io sono certo, Benedetta, che tu tornerai in Italia e tornerai in Molise, ma lo sai che sarà dura, dovremo fare una bella battaglia. Bene, ci sarò. Va bene, allora un'ultimissima domanda, Benedetta. L'ultimissima domanda è un po' difficile, ma penso che lei saprà rispondere in una frase brevissima e concisa. Che cos'è che la spinta in tutti questi anni a fare ricerca? non lo so, un po' essere folle, perché la ricerca è come la poesia, è come la fantasia, perché Dante ha scritto la Divina Commedia. Uno, perché dovremmo, se Dante fosse qui, gli potremmo chiedere, fare questa domanda, e lui non saprebbe rispondere, e anch'io non so rispondere, soltanto so che non avrei potuto fare diversamente. Beh, direi che questa è la migliore risposta che potevamo ottenere questa sera, quindi grazie. Allora, grazie mille Giovanni di questo intervento che ha così animato questa trasmissione dei Colori dell'Anima. Speriamo di averti ancora nostro ospite, non solo telefonico, ma magari anche di persona qui in radio. Ti aspettiamo. Me lo auguro. Va bene. Grazie. Buona serata. Buonasera. A tutti i radioascoltatori. Grazie. E questa era la canzone Briciole di Malika Ayane su Radio Alma 101.9, mentre ascoltate la trasmissione I Colori dell'Anima in compagnia di Rosanna e Benedetta. In questa serata speciale di San Valentino stiamo parlando di amore, ma amore naturalmente in un senso molto più ampio di quello che a cui probabilmente si pensa in questa giornata, che è l'amore tra le coppie, tra le coppiette, e quindi l'amore per tutto quello che ci circonda in un certo senso. E in questo contesto abbiamo anche poco fa finito un'intervista con il professor Giovanni De Gaetano, che è il direttore dei laboratori di ricerca dell'Università Cattolica di Campobasso, nel contesto appunto di amore per la ricerca e amore per la salute. Allora, intanto vi ricordo che se volete telefonarci il nostro numero 02 345 2656, 02 345 2656. Vi ricordo anche che I Colori dell'Anima naturalmente parlano di colori, e questa sera per la nostra trasmissione abbiamo scelto il colore rosso. A te, Benedetta. Ecco, adesso facciamo un salto di colori veloce, perché ci occupiamo di un argomento che io invece definirei molto verde in realtà. Quindi parliamo di amore per l'ambiente e per la natura. Non so, Rosanna, se ti è capitato di recente di guardare in TV una pubblicità di una nota acqua italiana, che non dovremmo dire insomma il nome, ma vabbè, questo è il momento della pubblicità, va? Diciamo così. Allora, sì, perché questa pubblicità è bellissima, quindi dobbiamo pubblicizzarla. E stiamo parlando dell'acqua Levissima. In questa pubblicità ci vengono presentati infatti 5 modi diversi di usare in maniera stupida una bottiglia di plastica, ed è davvero uno spot molto molto divertente, forse uno dei più divertenti degli ultimi anni. Poi però la pubblicità stessa invece ci esorta a utilizzare una bottiglia di plastica in maniera non stupida, ovvero riciclandola. Levissima infatti ha appena messo in commercio una nuova bottiglia costituita per ben il 25% da PET riciclato. Infatti, grazie all'entrata in vigore lo scorso 5 agosto del decreto ministeriale numero 113 del 18 maggio 2010, oggi il PET riciclato può infatti essere utilizzato anche per la realizzazione delle bottiglie di acqua minerale. Quindi Levissima ha intrapreso una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con u4planet.it, che potete anche visitare, ripeto, è u4planet.it, e questa campagna è stata appunto messa in piedi proprio per sensibilizzare i consumatori a contribuire nella loro quotidianità al ciclo cosiddetto bottle to bottle. Cioè una bottiglia di plastica che, avendo finito il suo ciclo di consumo, torna di nuovo ad essere bottiglia grazie al riciclo. Visitando questo sito, u4planet.it, è possibile conoscere veramente tante cose rispetto alla plastica riciclata. Sapevate ad esempio che la linea Earthkeepers di Timberland utilizza gomma e PET riciclati? In questo modo anche Timberland, che è appunto una nota marca di scarpe storiche, punta alla vendita di scarpe innovative e soprattutto rispettose dell'ambiente. Infatti, per ogni paio di scarpe viene utilizzata una bottiglia di plastica da 1,5 litri. Timberland ha inoltre ideato lo slogan "La natura ha bisogno di eroi", spingendo così i consumatori a valutare quanto possano sentirsi eroi nei grandi spazi aperti, sia indossando le scarpe, sia sapendo che quelle scarpe sono state prodotte grazie al riciclo di bottiglie. Un'altra novità, sempre presente sul sito u4planet.it, riguarda una sedia particolare, dal design particolare, chiamata sedia Sparkling. Forse, Rosanna, ci vuoi dire tu qualcosa di questo? Sì, infatti, volevo parlarvi di questa sedia perché è legata sempre a questo concetto dell'amore per la natura. Infatti in questa sedia convivono gusto per lo stile e responsabilità per l'ambiente. Sparkling è una sedia prodotta in plastica con un processo di soffiaggio comunemente utilizzato per la realizzazione di bottiglie in PET. In più, le sue gambe trasparenti, di forma rotonda, rimandano alla silhouette di bottiglie di soda, probabilmente il pezzo di design più divertente e audace dell'ultima collezione Magis, che vedeva grandissimi nomi del design internazionale. Il nome Sparkling, lo avrete capito, fa diretto riferimento alle acque frizzanti o agli spumanti, ma anche ai raggi solari sul vetro o sulla plastica. Sparkling gioca con quel luccichio che avviene per semplice rifrazione della luce, quel piccolo bagliore nel buio che avviene per incidenza casuale. E dalla sedia Sparkling ci spostiamo in un altro continente, cioè nello stato del Paraná, nella parte meridionale del Brasile. Qui infatti, sempre in collaborazione con U4Planet, è stato realizzato un importante esperimento di progettazione ambientale che utilizza materiali di scarto per produrre, ascoltate bene, energia termica solare. Il progetto è partito ad agosto del 2006, quando agenzie statali hanno patrocinato progetti di costruzione di scaldacqua solari. La particolarità del progetto sta nei materiali utilizzati e nelle tecniche di costruzione. E infatti, grazie a bottiglie in PET riciclate e contenitori in Tetra Pak per il confezionamento del latte, che gli scaldacqua sono in grado di fornire energia irraggiata dal sole, quindi energia rinnovabile verso la terra. Gli impianti solari termici sono dispositivi che permettono di catturare l'energia solare, immagazzinarla e usarla nelle maniere più svariate. Finora, pensate, sono stati realizzati circa 3.000 impianti che operano in ben 254 comuni di Paraná e che riutilizzano circa 1.200.000 bottiglie in PET e cartoni di latte che altrimenti sarebbero finiti semplicemente nella spazzatura. Direi che abbiamo fatto un bel percorso green in questa nostra serata red. E allora, Benedetta, per completare questo argomento ti propongo un brano che veramente tu mi hai proposto. Una canzone che si chiama Amore di plastica. Pensa un po', dimmi tu se non è inerente effettivamente all'argomento di oggi, ma naturalmente vogliamo intendere non di plastica, a noi ci piace quello vero. Quello vero, giusto? Sì, giustissimo. Ecco. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati perché sono le 21:51 e fino alle 22 resteremo in vostra compagnia. A fra pochi minuti. Allora, questa era Carmen Consoli ed è praticamente la canzone con la quale concludiamo la trasmissione di oggi, I colori dell'anima, in questa giornata di San Valentino. Benedetta, è stato un piacere averti qui in trasmissione, spero che tu tornerai molto spesso in futuro. Grazie Rosanna, è stato un piacere anche per me, un saluto a tutti i radioascoltatori e spero anch'io di ritornare presto a trovarvi. Benissimo, io comunque vi ricordo che se volete sapere un po' più di noi, in particolare delle trasmissioni italiane di Radio Alma, potete visitare il sito radioalma.blogspot.com e vabbè, magari non per stasera, ma insomma per le prossime volte, 02 345 2656. Allora, forse c'è una telefonata, proviamo a sentire se c'è qualcuno in linea. C'è qualcuno al telefono? Allora, c'è qualcuno? Non sentiamo. Ci sono. Ecco, ah, la nostra amica Maite. Ciao Maite. Ciao, come va? Ciao Maite. Buonasera. Giusto in tempo per salutare tutti i valentini. Tutti i valentini del Belgio, di tutto il mondo. Ecco, grazie mille, grazie. E ti abbraccio. Ci fa molto piacere che tu ci abbia chiamato, perché appunto ci fa piacere quando riceviamo delle telefonate, quindi anche questa dell'ultimo minuto l'accogliamo proprio con grande piacere. Ma comunque vieni anche in trasmissione qualche volta, sì, mi raccomando. Sì, vengo, non vi preoccupate, appena c'è... c'è meno nero, scuro di sera, vengo. Va bene, grazie Maite. Buona ciao serata. Maite. C'è anche Benedetta? Sì, ti saluto. Ciao. Ciao, buona serata. Grazie. Buon San Valentino a tutti. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E allora, buonasera a tutti, alla prossima volta da Rosanna. E Benedetta. Ciao, ciao, mi raccomando, ogni lunedì alle 21 I Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9. Ciao ciao. Ciao.